24 mattino di Alessandro Milan. Buongiorno cari ascoltatori, alle 7:20 minuti in punto, eccoci qua. Oggi in regia con noi c'è Carmelo Lauricella che ci seguirà fino alle 9. Siamo anche già attivi sulla nostra pagina Facebook 24 mattino. Allora, oggi parleremo di attualità, intanto politica, avremo ospite Antonio Di Pietro tra un'ora alle 8:20, dopo il voto sulla sfiducia al ministro Romano, e poi parleremo di una vicenda, il fatto che il figlio di Totò Riina uscirà dal carcere domenica, associazione mafiosa, e ha deciso, il giudice rimarrà a vivere al nord, a Padova. E a Padova qualcuno storce il naso per questa decisione. Ma ne parleremo più avanti allora, e come al solito oggi andiamo a leggere i giornali che sono ricchissimi di spunti, andiamo a sfogliarli. Questo giovedì 29 settembre, intanto i titoli, Sole 24 Ore, Banca Italia, il Premier frena, spunta l'ipotesi Terna. Mentre il Corriere della Sera ha uno scoop, perché il Corriere della Sera rivela la lettera che doveva essere riservata e segreta spedita dalla Banca Centrale Europea il 5 agosto scorso in Italia. Su questa lettera si è anche molto costruita la cronaca di questi mesi della situazione finanziaria italiana, la lettera segreta della BCE all'Italia, questo è il titolo di apertura del Corriere. Per la Stampa, Banca Italia, il veto di Bossi. Repubblica, Berlusconi, inchiesta sui magistrati. Per il Giornale, PM sinistra silurati. Mentre il Fatto Quotidiano, la mafia esiste e lotta insieme a loro. È la vicenda del voto di sfiducia al ministro Romano. Vabbè, questi sono alcuni dei titoli dei principali quotidiani, poi vedremo anche gli altri, ma voglio andare subito alle segnalazioni, perché come detto oggi è una rassegna stampa ricchissima, anche di cose curiose, anche di cose diverse, un po' più leggere, un po' più spassose. Oddio, leggere, sentiamo questa per esempio. Se la nonna impenna la moto e cade, la grande truffa dei falsi incidenti. Così a pagina 25 del Corriere della Sera, sapete che uno dei grandi classici sono le truffe agli assicurazioni, dicendo, mentendo su incidenti falsi, raggiri clamorosi raccontati da Giusy Fasano. Il record è a Taranto, è un'inchiesta con 321 indagati, da cui sono uscite delle storie anche degli spaccati d'Italia veramente spassosi, come quella dell'85enne nonna in sella una moto Suzuki 1000 alle prese con una bella impennata, ha perso il controllo del mezzo ed è finita contro l'autoveicolo che la precedeva. Constatazione amichevole, ovviamente la nonna non ne sapeva nulla, ma è una delle più classiche truffe. E poi che dire, scrive Giusy Fasano, di quella pratica con tre feriti da liquidare per colpo della frusta. Beh, nulla di male, solo che i tre feriti col colpo della frusta, si è scoperto, viaggiavano in Smart, dove notoriamente si può viaggiare al massimo in due. Oppure c'era una Lancia Y che meriterebbe la palma della sfortuna per la sua abnorme sinistrosità. 20 incidenti in 2 anni. Biciclette che fanno incidenti e poi vengono smontate in piccoli pezzi per evitare che il perito venga a fare un controllo sulla dinamica dell'incidente. D'altronde l'assessore provinciale al bilancio a Taranto, Giampiero Mancarello, dichiara così al Corriere: sapete che c'è? È diventato questa degli incidenti falsi una sorta di ammortizzatore sociale. È assurdo, lo so, ma è così. I truffatori delle assicurazioni oggi equivalgono ai contrabbandieri di sigarette di ieri. Anche quelli mantenevano famiglie intere con un reato che non creava allarme sociale. Eccola qui, la grande truffa dei falsi incidenti, raccontata a pagina 25 del Corriere della Sera. O che dire poi di questa segnalazione che troviamo in prima pagina di Repubblica, e Sebastiano Messina ne scrive sotto il titolo: Palermo paga i dipendenti per spalare la neve a luglio. Già il titolo, Carmelo ride, lui ride. Carmelo, il nostro tecnico. Palermo paga i dipendenti per spalare la neve a luglio. Così avete ben sedimentato il titolo. «C'è un motivo», scrive Messina, «se la Sicilia spende 8 volte più della Lombardia per gli stipendi dei suoi 17.000 dipendenti. C'è un motivo se la Regione Sicilia ha record italiano di dirigenti, funzionari, assistenti, consiglieri, consulenti. Qui c'è tanto, tanto lavoro da fare. Per esempio, a luglio tocca spalare la neve. Sì, proprio a luglio, quando il termometro segna 19 di minima e 30 di massima. Nell'isola del sole c'è la neve. Ma dove? A Mondello, a Cefalù, a Monreale? Questo al momento è un segreto. Certo che il signor Salvatore di Grazia, assegnato al servizio di protezione civile, ha chiesto e ottenuto dalla provincia il pagamento di 42 ore e mezzo di straordinario per spalamento neve. Ma non d'inverno, quelli li avevano già liquidati. 103 ore a gennaio, 92 a febbraio, 70 a marzo. No, scrive Messina, a marzo si è andata avanti. Sull'isoletta, come quel giapponese sull'isoletta che non sapeva della fine della guerra, lui ha continuato a spalare una neve che vedeva solo lui. E alla fine del mese chiedeva gli straordinari, 17 ore di spalamento ad aprile, 53 sotto il sole di maggio, 38 sudando nelle torride giornate di giugno. Lui spalava, la neve non finiva mai, e poi presentava il conto. Alla fine alla provincia qualche dirigente pignolo ha inarcato un sopracciglio e ha bloccato il pagamento, ma lui pare voglia fare ricorso al TAR. E racconta Sebastiano Messina, e si incatenerà davanti alla regione contro l'ingiustizia subita, cercherà un politico disposto a prendere a cuore la sua causa, e lo troverà di sicuro, perché in Sicilia, lo sanno tutti, il lavoro è sacro. Palermo paga per spalare la neve, oggi Sebastiano Messina sulla Repubblica. Voglio, prima di andare in pubblicità, fare invece una riflessione più seria su quello che pubblica oggi Panorama. Erika, il cognome, quando uno dice Erika, tante volte nell'immaginario del collettivo Italia non c'è bisogno neanche di dirlo. Il massacro di Novi Ligure, presto sarà libera. Ci sono delle frasi che a volte uno può anche pensare, ma magari può anche non dire. E invece Erika De Nardo ha detto questa frase. E colei che insieme a Omar ha ucciso la madre e il fratello di Erika. È il titolo di apertura anche del quotidiano nazionale, Erika Shock. La frase è questa: mia mamma mi manca da morire. Ora, ripeto, tutto legittimo. Tutto va bene, sappiamo che è un modo di dire, ma insomma, per Libero questa diventa una pagina, Erika ha rimosso tutto, è stato Omar, così a pagina 23, mentre Panorama vi dedica con anche le foto di Erika attuale, 27enne, varie pagine, pagina 62, pagina 66, i racconti di chi vive a fianco a lei, mia madre mi manca da morire, così parlò Erika De Nardo. Allora sono le 7:33 minuti, continuiamo nella lettura dei giornali, l'attualità politica, certo è il dopo voto alla sfiducia che è stata respinta al ministro Romano, il ministro Romano che è imputato per associazione concorso esterno in associazione mafiosa, e ieri la Camera ha respinto questa mozione di sfiducia dell'opposizione, 315 i voti per respingere la mozione, 294 invece coloro che volevano accogliere la mozione di sfiducia. Romano, la sfiducia non passa, regge il patto tra PDL e Lega, così titola pagina 8 il Corriere della Sera. E tra l'altro Romano, che raccontano, è apparso contratto, umiliato da una mozione di sfiducia odiosa da lui definita così, e poi dopo ha detto: festeggiare perché ho tanto da lavorare, ora c'è tanto spazio per fare le riforme e portare a termine la legislatura. Mentre l'opposizione ovviamente dice è una vergogna, c'è tra l'altro Berlusconi che è andato in Parlamento e molti raccolgono le battute fatte con alcuni suoi colleghi parlamentari. Bene il voto, ora ci vorrà un'inchiesta sui PM, questa è una questione che torna ieri, Repubblica ci titola anche in prima pagina, il titolo di apertura per Repubblica. Berlusconi, inchiesta sui magistrati, ha rilanciato questa idea, per la verità non nuova, di una commissione d'inchiesta sui magistrati. Tra l'altro Berlusconi che dice: oggi compio 75 anni, oggi il compleanno di Berlusconi come peraltro il compleanno di Bersani. Non c'è nulla da festeggiare, avrebbe detto ieri il Cavaliere, con le calunnie che ogni giorno mi piovono addosso, mi stanno preparando proprio un bel regalo. E poi c'è questa cosa che torna, rispunta, quasi quasi vado in TV e ribatto colpo su colpo e spiego tutto. Tra l'altro si vociferava di un possibile porta a porta ieri sul giornale, questa sera con Berlusconi, chissà, ci sarà questa sorpresa, non si sa. Anche per il retroscena di Carmelo Lo Papa su Repubblica, il premier tira un sospiro di sollievo dopo il voto su Romano, ma ormai siamo sotto assedio, vado in TV e rispondo colpo su colpo. Ci sono però due casi politici, due strascichi dal voto, e sono il primo, la base della Lega in rivolta, come spesso si vocifera e spesso si dice, anche se dai maggiori esponenti del partito della Lega ci sono invece in risposta attacchi ai giornalisti dicendo è tutto inventato, ma oggi il Corriere della Sera pubblica in prima pagina una lettera di un sindaco, il sindaco di Macherio. Io, leghista a Macherio, tradito dal mio partito. Giancarlo Porta scrive a Ferruccio De Bortoli, il direttore del Corriere: caro direttore, sono un sindaco leghista che si è stancato di mandar giù bocconi amari e si è accorto di come sia terrificante oggi il potere della Lega. Vengo da una militanza ventennale, da 2 anni e mezzo faccio il sindaco a Macherio con 920 euro netti al mese di stipendio, di cui 100 vanno nelle casse del partito. Sono avvilito, incazzato, mi sento tremendamente preso in giro. Insomma, inizia così questa lettera sfogo che poi continua all'interno a pagina 11 del sindaco di Macherio, Giancarlo Porta, che dice: la logica del potere sconfina nel salvare chi fa il furbo e allora io mi sento ferito. È difficile mandar giù i bocconi amari, gli ultimi su Marco Milanese, l'onorevole, e appunto il ministro Romano. Il secondo caso invece è proprio all'interno dell'opposizione, perché paradossalmente questo voto ha messo in crisi anche l'opposizione su un aspetto: il fatto che i radicali, che sono alla Camera all'interno del gruppo del Partito Democratico, non hanno votato. Non solo hanno inalberato dei cartelli, hanno inscenato una protesta con i cartelli amnistia, 6 radicali che a ogni chiama urlano amnistia innalzando cartelli, sono nel gruppo PD e pare che Rosi Bindi abbia detto: questi vanno cacciati. I radicali non votano e il PD valuta l'espulsione del gruppo. Il giornale punta proprio su questo. A pagina 3, il PD sconfitto se la prende con i radicali. C'è la foto di 6 radicali che appunto innalzano questi cartelli amnistia, amnistia, e soprattutto hanno fatto mancare 6 voti all'opposizione. Comunque parleremo di questo dopo voto. La sfiducia al ministro Saverio Romano, che, per usare una parola usata da Claudio Scajola ieri, l'ha sfangata, questo ha detto l'ex ministro, visto com'è andata l'abbiamo proprio sfangata questa volta, e ne parleremo alle 8:20 con Antonio Di Pietro, leader dell'Italia dei Valori, che sarà il nostro ospite. Voglio andare alle notizie economiche e finanziarie, devo partire oggi dal Corriere della Sera. Il Corriere della Sera pubblica uno scoop, in prima pagina l'apertura: la lettera segreta della BCE all'Italia. Sapete che il 5 agosto, e se ne è parlato molto di questa lettera, diventata quasi leggendaria, per qualcuno era proprio una leggenda, in realtà è una lettera oggi pubblicata a pagina 3 integralmente dal Corriere della Sera, è la lettera che Jean-Claude Trichet, come presidente della Banca Centrale Europea, e il suo successore in pectore, vale a dire il nostro Mario Draghi, hanno spedito il 5 agosto scorso al governo italiano, una lettera che doveva rimanere riservata, confidenziale, nella quale la BCE chiede all'Italia che cosa? Liberalizzazioni, flessibilità del lavoro, misure sulle pensioni. Eccola qui, pubblicata a pagina 3 del Corriere, integralmente in originale, in inglese e con traduzione in italiano. Serve un'azione pressante per ristabilire la fiducia degli investitori, caro primo ministro. Inizia così la lettera di Jean-Claude Trichet e Mario Draghi. Ecco il documento della BCE che chiede varie cose. Il consiglio direttivo, si legge nella lettera, ritiene che l'Italia debba con urgenza rafforzare la reputazione della sua firma sovrana e il suo impegno alla sostenibilità di bilancio e riforme strutturali. Che cosa invita a fare la BCE in questa lettera? Intanto una complessiva, necessaria, radicale, credibile strategia di riforme, inclusa la piena liberalizzazione di servizi pubblici locali e servizi professionali. Poi riformare il sistema di contrattazione salariale collettiva, permettendo accordi a livello di impresa in modo da ritagliare i salari e le condizioni di lavoro alle esigenze specifiche delle aziende. Poi un'accurata revisione delle norme che regolano l'assunzione e il licenziamento dei dipendenti, stabilendo un sistema di assicurazione della disoccupazione e un insieme di politiche attive per il mercato del lavoro che siano in grado di facilitare la riallocazione delle risorse. Poi misure sul bilancio, ulteriori, necessarie. E ancora, intervenire sul sistema pensionistico, rendendo più rigorosi i criteri di idoneità per le pensioni d'anzianità e riportando l'età del ritiro delle donne nel settore privato rapidamente in linea con quella stabilita per il settore pubblico, ottenendo così risparmi già nel 2012. E ancora, valutare una riduzione significativa dei costi del pubblico impiego, rafforzando le regole per turnover e, se necessario, riducendo gli stipendi. Quindi questa è una considerazione che certo farà discutere tra le considerazioni fatte dalla BCE, ridurre gli stipendi pubblici. Insomma, tutte queste azioni che in questa lettera Jean-Claude Trichet e Mario Draghi hanno sollecitato all'Italia. La lettera finalmente è diventata pubblica, anche se doveva rimanere riservata, ma il Corriere della Sera fa questo scoop. Dal punto di vista finanziario in Italia invece tutti i giornali si concentrano su quello che è diventato il nuovo braccio di ferro, pare, tra Berlusconi e Tremonti, vale a dire sulla nomina al successore di Mario Draghi, appunto in procinto di andare alla Banca Centrale Europea, a Banca Italia. Su Banca Italia spunta l'ipotesi Terna, così titola pagina 3 del Sole 24 Ore, vale a dire c'è il candidato Grilli del Tesoro, sponsorizzato da Tremonti, e c'è il candidato Saccomanni, che è l'attuale direttore generale della Banca d'Italia, che è più sponsorizzato da Berlusconi, da Gianni Letta, pare anche dal capo dello Stato Napolitano, e su questi due nomi c'è il braccio di ferro. Ieri poi Bossi se n'è uscito con una delle sue: meglio Grilli perché è di Milano, tanto che Bersani ha risposto: io, se volete, ne ho uno di candidato di Bettola, il paese dove è nato Bersani. Ma insomma, la questione in realtà è molto più seria, al di là di queste dichiarazioni un po' meno serie, e cioè che su questa nomina c'è un nuovo braccio di ferro politico. Spunta l'ipotesi Terna, secondo il Sole, per uscire da questa impasse, vale a dire delineare una terna di candidati invece di uno. In questo caso sarebbero Saccomanni, Grilli e Lorenzo Binismaghi, cioè l'esponente italiano nel board della BCE, il cui nome ha ripreso ieri a circolare. Resta in campo anche Ignazio Visco, che è il vice direttore generale. Ma insomma, l'ipotesi della terna però lascia freddo Tremonti. Sta di fatto che su questo c'è un duello, e tra l'altro sulla stampa Amedeo La Mattina racconta in questo retroscena che molti fanno all'interno del PDL dicono a Berlusconi: tieni duro o perderai la faccia. Cioè, chi decide la nomina di Banca Italia, se vince Saccomanni o se vince Grilli in questa nomina, in questo braccio di ferro, beh, da lì si capisce chi è più forte tra Tremonti e Berlusconi. È una prova di forza, tanto che secondo il Der Spiegel è diventato un pericoloso combattimento di galli, questo della vicenda della nomina di Banca Italia. Anche perché sullo sfondo di questo, e il giornale ne scrive a pagina 5, Banca Italia, il no di Tremonti blocca il risico, questo è il titolo dell'articolo di Adalberto Signore, c'è il dato di fatto che Tremonti, dopo aver insistito voglio Grilli al Tesoro, mentre Berlusconi preferirebbe Saccomanni, l'ennesima crepa del governo in questo è il fatto che proprio ieri Tremonti ha firmato un documento che dispone 6 miliardi di euro di tagli ai ministeri. Ora capite che scrive ad Alberto Signore sul giornale a pagina 5, firmato dal titolare di Via 20 Settembre, come al solito senza consultare nessuno, ma ci ha messo la faccia il Cavaliere quando ieri pomeriggio ha controfirmato il provvedimento di Tremonti, il malessere da parte di tutti i colleghi ministri di Tremonti è montato per tutta la giornata. E allora qualcuno pare che dica: Berlusconi, tieni duro su questa vicenda Banca Italia, altrimenti è la dimostrazione, insomma, che Tremonti domina e controlla tutto. In questo clima, cosa è successo? Ieri un esponente del governo, l'abbiamo sentito anche nel giornale radio, Matteoli, è stato contestato, i costruttori contestano Matteoli, così sul Sole a pagina 5, il ministro interrotto più volte all'assemblea dell'ANCE, e una dura contestazione al grido di vergogna da parte di alcuni esponenti dell'ANCE, anche per La Stampa, costruttori contro Matteoli, fischi e urla, vergogna, non sa di che cosa parla. Insomma, Matteoli, che avete sentito con anche classe, insomma, ha tenuto, ha detto va bene, insomma, la contestazione la capisco anche per certi versi, ma insomma il clima è questo, come il clima giudiziario è anche quello sempre della questione delle intercettazioni. Oggi il ministro della giustizia fa un'intervista al Messaggero. Il ministro della giustizia Francesco Nitto Palma, intervistato da Massimo Martinelli per il Messaggero a pagina 3. Intercettazioni, si può far meglio, ma approviamo questo testo, dice il ministro Palma. Devo rilevare che l'attenzione mediatica che i giornali dedicano in questi giorni alle vicende private del Presidente del Consiglio non corrisponde a quella dedicata, ad esempio, alla vicenda Penati, che mi viene in mente solo perché è contemporanea. Eppure il Premier si ritrova sotto i riflettori per comportamenti privati. Nel secondo caso le indagini hanno evidenziato comportamenti pubblici di un uomo pubblico. Ecco, parte da questa considerazione, peraltro fatta nella conclusione dell'intervista, però per dire il ministro Palma, bisogna fare questa riforma delle intercettazioni, non è possibile che finiscano sui giornali conversazioni che riguardano la vita privata delle persone, indagati e non. Questo testo è comunque migliore di quello in vigore adesso. Penso ai correttivi della bozza dell'ex guardasigilli Mastella, dunque torna la vicenda Mastella. E poi dice: non mi convince anche il ministro Palma l'assenza di norme per evitare le cosiddette intercettazioni a strascico, ma anche la registrazione di telefonate irrilevanti dal punto di vista penale e la successiva trascrizione di quelle conversazioni. Insomma, Nitto Palma dice: bisogna andare avanti con questa norma sulle intercettazioni. Tra l'altro, a proposito di inchieste, beh, ieri è apparso La Vitola. Enrico Mentana, nel suo nuovo programma Bersaglio Mobile, ha invitato e ha ospitato Walter La Vitola, latitante collegato da Panama per la vicenda della presunta estorsione ai danni del Premier. E La Vitola ha detto: c'è una telefonata che mi scagionerebbe, questa telefonata in cui io dicevo a Berlusconi mi ha contattato Tarantini, ha notizia dei 500.000 euro e vuole che gli sia consegnata questa somma, gliela metto a disposizione? E il presidente Berlusconi rispondeva: no, no, lui deve fare un'attività, aiutali che sono due ragazzini. E La Vitola ha detto: lancio un appello alla procura, perché questa telefonata non è stata intercettata o trascritta? Insomma, fu il Premier al telefono a dirmi di aiutare i Tarantini, così titola pagina 13 il Corriere della Sera, e dice: quella telefonata, secondo La Vitola, non esiste negli atti, ma è una telefonata che mi scagiona. Insomma, sta di fatto che, come detto, oggi, tra inchieste o non inchieste, oggi sono i 75 anni, è il compleanno di Berlusconi, che racconta al Fatto Quotidiano, riprendendo peraltro quello che ieri già rivelava l'Unità, sarebbe pronta una festa ad Arcore organizzata da l'uragano Catarina, così viene così titola il Fatto Quotidiano a pagina 3. Fa la festa al Premier. Di chi si tratta? Di Catarina Knezevic, montenegrina, che peraltro oggi parla con Repubblica. È Miss Montenegro, la mia storia con Silvio è cominciata a 18 anni. Catarina Knezevic racconta: vivo ad Arcore, spesso con lui, sono fidanzata con Berlusconi, stiamo insieme da quando è esploso il caso Noemi e lui si è separato dalla moglie, non l'ho mai ricattato, sono altri che l'hanno usato e l'hanno tradito. Catarina Knezevic, 20 anni, modella, sostiene di essere la fidanzata montenegrina del Premier, vivo spesso ad Arcore. Vabbè, lo trovate il suo racconto su Repubblica, pagina 12 e 13. Ora devo fare una parentesi su quello che trovate sul Libero, a pagina 15. È un'intervista dai toni forti, e usare un eufemismo. Francesco Borgonovo racconta che è in uscita il 3 ottobre un documentario dal titolo La neve e il fuoco, di Maria Pace Ottieri e Luca Musella, nel quale Giorgio Bocca, 91 anni, fa un'intervista di un'ora, in cui dice le seguenti cose. Giorgio Bocca parla un po' delle altre persone. Pasolini è morto perché, la rigirino pure come vogliono, era di una violenza spaventosa nei confronti di questi suoi amici puttaneschi. E poi dice Bocca, mi dava noia questo, io ho un po' di omofobia. Il mio concetto piemontese è che gli uomini veri vanno a fare il soldato, quindi questa faccenda dei suoi rapporti con questi poveretti che manipolava. Poi di Eugenio Scalfari, è uno molto pieno di sé che recita il potere. Gianni Brera era un fetente, una carogna paracadutista, sai, uno nasce carogna. Della Fallaci, che lui chiamava Olialà Fallaci, era tutta letteratura e niente cronaca, tutta la cronaca la inventava. Un giorno le prestai $50 e non li ho mai più rivisti. E poi sul commissario Calabresi, lui firmò l'appello contro Calabresi allora. Beh, allora non era un appello per niente ignobile. Il signor Calabresi era un poliziotto reazionario estremo, nemico del movimento. Perché dovrei chiedere scusa? Ho firmato quell'appello perché era parte delle trame nere, Calabresi. Era d'accordo col prefetto che ha sviato le indagini e ha fatto arrestare gli anarchici. Quindi era un nemico. Ma poi Travaglio, ogni 2 mesi fa un libro, libri fatti coi ritagli della questura, dei tribunali, libri pessimi. Ma poi arriva al peggio del peggio, il culmine del disgusto, quando Giorgio Bocca parla del Sud. Quando andava al Sud c'era sempre il contrasto tra paesaggi meravigliosi e questa gente orrenda. Insomma, la gente del Sud è orrenda. C'era questo contrasto incredibile tra cose meravigliose e un'umanità spesso repellente. Dal Palazzo di Giustizia di Palermo una puzza di marcio, gente mostruosa che usciva dalle catapecchie. Vai a Napoli ed è un cimiciaio ancora adesso. E racconta Francesco Borgonovo, l'intervistatrice disperata, cerca di fargli dire qualcosa di gentile sui meridionali, sul modo di vivere di quelle parti. Poesia, risponde Giorgio Bocca, per me è il terrore, è il cancro. Zone urbane, marce, inguaribili. E insomma, e poi, ma nei suoi libri lei ne parlava bene, è necessaria un po' di ipocrisia. Sapevo che dovevo tener buoni i miei lettori meridionali e nei libri davo un contentino. Così Bocca, Giorgio Bocca, Bocca dei veleni al Sud, gente orrenda. Così titola a pagina 15, Libero. Mi sa che è finito lo spazio? No. Ho 30 secondi. E allora 30 secondi racconto. Vabbè, del Milan ve lo risparmio, dai. Ha vinto contro una temibile squadra della Repubblica Ceca. No, Speroni, eurodeputato, è diventato avvocato, ma ho fatto l'esame a Bruxelles e perché? Perché è molto più facile che in Italia. Non conosco le statistiche, ma qui le bocciature sono molte meno rispetto a quelle dell'esame dell'abilitazione in Italia. Lo racconta al Fatto Quotidiano, diventato avvocato, furbetto, qui a Bruxelles, dove è molto più facile passare l'esame. 24 mattino. Allora, ben ritrovati da Alessandro Milan alle 8:21 minuti. Ieri dunque la Camera con 315 voti ha respinto la mozione di sfiducia al ministro Romano, che è imputato per concorso esterno in un'associazione mafiosa. Ne parliamo con Antonio Di Pietro, leader dell'Italia dei Valori. Buongiorno e ben ritrovato Di Pietro. Buongiorno a lei, buongiorno a tutti gli ascoltatori, eccomi qua. Eccoci, senta, perché avrebbe dovuto dimettersi un ministro che al momento è imputato, ma insomma non si sa neanche se inizierà il processo ai suoi danni? Non è una questione giudiziaria. Ad oggi esiste una legge, la legge antimafia, non una legge qualsiasi, che impone al ministro dell'interno di sciogliere i consigli comunali, quindi organismo plurale, ogni volta che all'interno di esse c'è qualcuno che può avere rapporti di contiguità, ancorché non penalmente accertati, con la mafia, la camorra o la criminalità organizzata. E in questo senso decine di consigli comunali sono stati sciolti per atto amministrativo. All'interno del Consiglio dei Ministri, che è un organo anch'esso collegiale, c'è un ministro che è già stato imputato, cioè già stata fatta la richiesta di rinvio a giudizio per mafia, e in questo senso allora è un assurdo che la legge antimafia Per legge antimafia il Consiglio dei Ministri e il Ministro degli Interni deve sciogliere i consigli comunali, e invece non si deve dimettere o non si deve revocare l'incarico a un ministro in carica. Ecco perché noi riteniamo che siamo di fronte a una violazione della legge antimafia, e soprattutto qui è una questione di opportunità. Sì. Di fronte a una persona che ha contiguità, al di là degli aspetti giudiziari che saranno valutati in altra sede, al contiguità con accertata, con elementi già condannati per mafia, ci sembra che in uno Stato di diritto, in un paese democratico, in un paese occidentale, sia fuori luogo, inopportuno, scandaloso che al governo resti questa persona. Si vada a far giudicare dal suo giudice, ma non mette in imbarazzo le istituzioni. Però lui dice da anni che ti tirano fuori questa storia, cioè sono appeso a una giustizia che da anni non decide, e io che devo fare per queste... Non è vero che non decide, la giustizia decide, e non è colpa certa del giudice se nel mentre si fanno le indagini escono sempre di più elementi di prova nei suoi confronti, tanto è vero che una prima volta era stata anche richiesta l'archiviazione nei suoi confronti, pur rilevando elementi di contiguità e quindi ai fini amministrativi già sufficiente, ma poi nel corso delle ulteriori indagini si sono scoperti ulteriori rapporti di contiguità. Cioè, alla fine è colpa del giudice se c'è un signore che si mette ad avere rapporti di... stiamo parlando di voto di scambio, nel senso, io ti faccio un favore a te e tu mi fai eleggere a me o ai miei amici. Sì, queste sono, non è una cosa da queste fare, sono da le accuse. Senta, Di Pietro, lei di recente aveva detto attenzione perché qui non vorrei ci scappasse il morto. Ieri in Parlamento ha detto se succede la violenza i mandanti siete voi del governo. Ma non sta un po', diciamo, scherzando col fuoco con questa storia della violenza? Sulla violenza sta scherzando sul fuoco questo governo, perché questa è una cosa incredibile, è un po' come dire al medico che esce in sala operatoria e dice ai parenti guardate che qui c'è un focolaio di infezione, questo può diciamo così morire da un momento all'altro, e tutti se la prendono col medico invece che con l'infezione, invece che con la malattia. Qui il problema vero è che, e le faccio un esempio concreto, il problema vero è che nel mentre il paese brucia, nel mentre c'è una disperazione sociale che è inarrivabile soltanto a immaginarlo, c'è gente che non arriva a fine mese, fabbriche che chiudono, gente senza lavoro, addirittura c'era fuori dal palazzo l'altro giorno, c'erano a manifestare contro il palazzo i poliziotti, i finanzieri, i vigili del fuoco, cioè anche coloro che dovrebbero tutelare le istituzioni perché non ce la fanno più. Rispetto a tutto questo, lei sa ieri alla Chetichella che cosa è stato deciso di cui si deve occupare il Parlamento? Cosa? Due cose: uno, la modifica delle leggi sulle intercettazioni telefoniche, sì. Due, il cosiddetto processo lungo, cioè sono due provvedimenti che non servono alla giustizia, che non aiutano i cittadini a stare meglio, ma servono soltanto al Presidente del Consiglio e agli amici suoi di allungare i tempi processuali per arrivare alla prescrizione e quindi dire che lo hanno perseguitato perché nessun giudice l'ha giudicato, e le intercettazioni per fare in modo che non ci sia uno strumento di indagine che sveglia alcune marachelle. Dovesse succedere questa violenza, lei non si sentirebbe, diciamo, anche responsabile di avere un po' aizzato gli animi, no? Ma non diciamo sciocchezze, lei lo sa, siccome lei è stupido, non è, se ne, credo che si stia diventando rosso di vergogna solo lei stessa. No, che rosso di vergogna, le faccio una domanda. Perché è una vergogna dire una cosa, immaginare una cosa di questo genere. Io non sto dicendo che voglio la violenza, sto dicendo che io giro per la strada. A proposito, noi domani depositiamo quasi 1 milione di firme al comitato, alla Cassazione, per la nuova legge elettorale sul referendum abrogativo. Mentre facevano tutte queste cose il palazzo, noi siamo andati in giro quest'estate a raccogliere firme. Ebbene, io sono stato insieme a tutti quelli dell'Italia Valori, non solo, a raccogliere questo 1 milione di firme, e nelle piazze c'è una disperazione crescente, c'è una rivolta sociale alle porte. Lanciare l'allarme per evitare che questo accade, mi venite a dire che mi devo sentire responsabile, mi viene da dire a chi dice una cosa del genere, ma andare a quel paese. Vabbè, la prendo come andate a quel paese, ma vado anch'io a quel paese. Senta, i radicali non hanno votato col PD, è vero che stanno nel gruppo del PD ieri, ma secondo lei sono compatibili? Qualcuno nel PD dice vanno espulsi a questo punto? No, ieri è successo un fatto davvero che non ha né un senso né una logica, se non una ricerca di visibilità a buon prezzo in un momento drammatico per l'istituzione e per il paese. Ieri si discuteva se all'interno delle istituzioni ci devono stare persone avendo rapporti con la mafia e quindi come combattere la criminalità. Ieri i radicali sono usciti con i cartelli e con la protesta dicendo amnistia, tutti fuori quelli che stanno dalle carceri. È un non senso e non una logica. Io ho sempre detto che il problema delle carceri non si risolve mettendo fuori i delinquenti, ma si risolve in due modi. Primo, facendo in modo che la delinquenza non attecchisca. Secondo, a chi fa il delinquente di stare in carcere, semmai di aumentare il numero delle carceri italiane, non di mettere fuori i delinquenti. Ma il PD cioè i radicali che votano così sono compatibili oppure, insomma, perché appunto... I radicali portano avanti una loro battaglia libertaria per cui si può fare di tutto e di più. Si può fumare spinelli, si può inveire contro il Padre Eterno, si può si deve abolire le carceri, eccetera. Voglio dire, è un modo di vivere, è un modo di vivere, a mio avviso, inconcepibile in una democrazia occidentale, in uno Stato di diritto. L'errore è stato quello, e non l'ho certo fatto io, l'errore è stato quello di dargli uno spazio, una voce, uno scranno per poter portare avanti queste loro aspirazioni. Sì. Poi dopodiché il problema di fondo non è loro che rivendicano quel che pensano, è chi ce l'ha messo chi lì. Ce l'ha messo. Sì, senta, due battute rapide. La questione: dicono che Di Pietro sia come Bossi, perché lui ha il trota e anche si candida suo figlio alle regionali in Molise. Sappiamo che c'è il listino bloccato. Quindi... Perché mio figlio è stato candidato al listino bloccato? No, ho capito. Sarà candidato alle regionali. Con un cognome Di Pietro. Infatti mio figlio che deve andare? Deve cambiare cognome, cosa fa? Deve sparare. Voglio dire, allora mi perdoni, io non voglio giudicare i figli degli altri, io sto parlando di una persona che, come tutti gli altri, quando io ho iniziato a fare politica 12 anni fa, ha cominciato anche lui a 26 anni a fare politica, oggi ne ha 40 di anni, fa da 20 anni il poliziotto da marciapiede, nel senso che sta sulle volanti, non sta imboscato in ufficio col nome di papà, fa il poliziotto alle volanti, c'ha quasi 40 anni, 3 figli, ha già fatto, questa è la quarta legislatura, non è che si è candidato oggi, da quando abbiamo iniziato a fare politica insieme, io e lui, con l'Italia dei Valori, perché lui nasce con l'Italia dei Valori a 26 anni, non è stato eletto in un listino, è stato eletto a fare il consigliere comunale del suo paese di origine, sì, la prima volta, la seconda volta a fare il consigliere comunale del suo paese di origine, la terza volta a fare il consigliere provinciale, adesso a fare il consigliere regionale, ma sempre chiedendo il voto di preferenza sul suo nome, che la prima volta può essere quello di Di Pietro padre, ma se lo rieleggono allo stesso posto la seconda, la terza, la quarta volta, evidentemente quindi, per quel che ha fatto in questi anni, quindi lei respinge il paragone, insomma, ma è un po' come dire, allora facciamo una cosa, secondo lei, e io adesso voglio fare il difensore d'ufficio della signora Rauti, la moglie di Alemanno. Sì. Secondo l'altro ieri ha detto basta Minetti in consiglio regionale, perché la Minetti, una ragazza che non aveva mai fatto politica, all'improvviso è trovata nel listino, e quell'altro gli ha risposto dicendo anche tua moglie l'hai messo nel listino del consiglio regionale. Ora ogni storia ha la sua storia e ogni persona ha la sua storia. Io voglio dire, la Minetti giudicatela voi, perché è andata col crocifisso al collo a fare la consigliera regionale, capisci a me. La signora Rauti sarà pure la moglie di Alemanno, ma è una signora che da prima di Alemanno, è da 20 anni che fa politica, come tra l'altro mio figlio è da 12 anni che fa politica, e semmai bisogna vedere se la signora Rauti è la moglie di Alemanno o Alemanno è il marito della signora Rauti. Di Pietro, devo concludere, oggi è il compleanno di Berlusconi e Bersani, forza, faccia, dica un messaggio a Berlusconi per il suo compleanno, su, si sforza. Invito lei e qualcun altro a fare gli auguri a me, che li faccio domani. A lei domani? a Bersani. Diplomatico però Berlusconi. Abbia pazienza. Purtroppo è una di quelle poche cose che non siamo riusciti a restare il tempo che passa. Quindi, ho capito, ma dica, non so, a Berlusconi il giorno del compleanno. Ma siccome questi giorni è anche il mio di compleanno, mi lasci godere il mio. Ah, va bene, la ringrazio. Allora, buona giornata. Antonio Di Pietro, leader dell'Italia dei Valori. Ci fermiamo per la pubblicità e il meteo, e poi parliamo di una vicenda diversa, di cronaca, legata sempre alla mafia. Il figlio di Totò Riina esce dal carcere e dice andrò a vivere a Padova. A Padova qualcuno non ce lo vuole. Allora, sono le 8:38 minuti, eccoci qua. La storia di cronaca è quella di Giuseppe Salvatore Riina, un cognome che non ha bisogno di ulteriori specifiche, 34 anni, figlio minore di Totò Riina, che uscirà dal carcere di Voghera domenica dopo aver scontato 8 anni e 10 mesi per associazione mafiosa e starà 2 anni in sorveglianza speciale, ma andrà a vivere, pare, a Padova. Così si è espresso il magistrato, così è la volontà, pare, anche della madre di Salvatore Riina, a dire ieri sul Corriere una frase: almeno uno lo voglio salvare della famiglia. A Padova qualcuno non ce lo vuole. Senatore Giampaolo Vallardi, buongiorno, della Lega Nord. Buongiorno. Lei fa parte anche della commissione parlamentare inchiesta sulla mafia. Saluto anche Patrizio Gonnella, presidente dell'associazione Antigone, che si occupa sempre della vita nel carcere dei carcerati. Buongiorno Gonnella. Buongiorno a voi. Allora, intanto Vallardi, perché? Che fastidio dà un Riina a Padova? Beh, credo sia anche abbastanza logico, al di là del nome, che per carità non, da solo credo impressioni già abbastanza per la sua storia che tutti quanti conosciamo. Sappiamo che è uno dei figli di Totò Riina. Non è che ci dia fastidio in quanto tale, per carità, no? Siamo anche abbastanza realisti. Il problema è un problema anche storico, no? Quel triste provvedimento dei mafiosi al confino che da tantissimi anni, oltre 20 anni, ha provocato tutto quello che noi conosciamo. Chi si occupa di mafia, ma anche chi non si occupa di mafia, sa che portare i mafiosi in un territorio che magari anche culturalmente non ha nulla a che fare con la mafia crea problemi di radicamento, crea problemi di diffusione del fenomeno mafioso. Al di là di quello che posso dire io, anche altre persone al nord, è storicamente provato che è meglio non portare queste persone in un territorio che, comunque, ribadisco, non ha culturalmente nulla a che fare. Cioè, dice, con il timore che esporti una cultura di tipo mafioso in un territorio che è intonso da quel punto di vista, anche se poi forse è una visione appunto di 30, 40, 50 anni fa, nel senso ormai si sa che la mafia, no? Corre per altri canali ed è globale, senatore, non è questione di spostamenti di persone. Sì, ma guardi, il fenomeno mafioso sicuramente ha avuto un'evoluzione anche, se mi consente il termine, telematica, quindi per carità la famosa mafia di terza generazione, ormai il mafioso non è più quel personaggio con la coppola e la lupara, questo lo sappiamo e lo comprendiamo tutti. Chiaro è che secondo me bene non fa che un personaggio come il figlio di Riina venga nel nostro territorio, sicuramente la sua potenzialità di redenzione la sua volontà di redenzione mi lascia particolarmente perplesso uno che come lui così è stato condannato per associazione mafiosa e che comunque non si è mai dichiarato pentito. Il fatto che la mamma piangendo dica voglio salvarne almeno uno mi può anche far riflettere, però mi sembra che la volontà del figlio non vada assolutamente in quella direzione. Allora, in tribunale pare che abbia detto il figlio di Riina voglio rifarmi una vita nonostante il cognome che porto, andrà appunto a Padova, lavorerà per una Onlus, anche qui a Padova, e vorrei coinvolgere su questo Patrizio Gonnella, insomma, che si possono fare tante considerazioni sul concetto di una pena scontata, sul concetto di rieducazione a cui deve tendere sempre la detenzione, il carcere. Ci sono però delle onlus, per esempio a Padova, che hanno dichiarato noi non l'avremmo accettato con molta serenità, cioè non avremmo accettato una persona che non ha dimostrato, pare, di aver fatto un percorso, per esempio, che ne so, di dissociazione rispetto alla sua storia pregressa. Allora Gonnella, che considerazioni si possono fare di fronte a chi dice non lo vogliamo qui un Riina? Beh, prima di tutto la vera scommessa intorno alla funzione rieducativa della pena non è sui casi facili ma è sui casi difficili. Questa è la premessa e questo è ovviamente un caso difficile perché è un caso di un figlio di un grande boss che ha scontato 8 anni per associazione a delinquere di stampo mafioso. Poi ovviamente noi abbiamo una cultura, diciamo, quando noi diciamo parlo di noi che ci occupiamo di questo tema, di rispetto fondo delle istituzioni, quindi ci immaginiamo istituzioni sociali ma anche istituzioni della Repubblica. Quindi ci immaginiamo che quando la magistratura di sorveglianza avrà deciso che veramente dovrà andare lì a Padova dando delle prescrizioni e presso un'organizzazione che si occupa di prevenzione delle tossicodipendenze e di aiuto ai ragazzi con problemi di droga, probabilmente avrà fatto una sua una sua verifica. E noi pensiamo che in realtà poi alla fine sia una bella storia quella per cui il figlio di un mafioso, di un capo mafia, vada ad aiutare i ragazzi tossicodipendenti, e ci fidiamo della comunità territoriale padovana perché sappiamo che una comunità territoriale padovana sarà sicuramente capace di, come posso dire, di non farsi condizionare da uno di 30, di 35, 37 anni, da uno solo. È una comunità forte, dai valori solidi. Chi invece teme questo probabilmente non si fida della comunità padovana. Non si fida di questo. Io so che a Padova, senatore Vallardi, ma è vero che la Lega è pronta anche a fare, qualcuno dice, a scendere in piazza? Ci sono esponenti leghisti che hanno detto siamo pronti a metterci di traversa questa decisione, però sembra un po'... Ma certamente che ci metteremo di traversa. Mi dispiace che il signor Gonnella, che probabilmente di mafia ne capisce probabilmente non moltissimo, dice che la comunità padovana non è in grado di supportare un reinserimento di un personaggio del genere. Io faccio l'esempio così, alimentare, se mi concede il termine: se lei mette una mela marcia assieme a delle mele buone, c'è un'altissima percentuale di probabilità che anche le mele buone a dire il vero. Gonnella dice appunto la comunità padovana saprà capire che non è da mettere una persona che può avere un passato in questo momento. La comunità padovana, come tutto il nord, ha ben altri pensieri, certo, preoccuparsi del reinserimento di un mafioso del calibro del figlio di Rina. Abbiamo problemi economici, lo sappiamo tutti che per rilanciare l'economia c'è una delle fattori principali su cui si fonda il rilancio dell'economia è la sicurezza e la pace sociale. Credo che il figlio di Rina, sicuramente il reinserimento del figlio di Rina sicuramente non vada in questa direzione. Io credo che per la sua storia questa famiglia debba essere circoscritta nel suo territorio di origine. Lì c'è una cultura diversa, possiamo tranquillamente riportarlo a casa sua tra l'affetto dei suoi familiari, gli mettiamo attorno magari qualche agente di polizia che lo controlli, così come dobbiamo comunque controllarlo. Se mi permette, dobbiamo comunque controllarlo anche il nord, perché il procuratore capo Gustavo Cioppa dice che il personaggio è ancora potenzialmente pericoloso. E infatti ci saranno due anni di sottoposto a misure cautelative. Non capisco perché non lo possiamo tranquillamente riportare a casa sua tra l'affetto dei suoi familiari, vicino alla sua mamma che è così preoccupata per il futuro del figlio, così lo accudisce da vicino e gli può insegnare quelle cose che ritiene opportune. Allora, le informazioni sul traffico, però vorrei chiedere 800 24 00 24 all'ascoltatore, ma davvero dà fastidio, non so se volete chiamarci anche da Padova, vi dà fastidio l'idea di avere il figlio di Rina, forse, che viva a Padova, anche se in regime di controllo per due anni, di sorveglianza, di limitazioni della libertà e comunque sorveglianza stretta, è proprio davvero si lega a quella legge sul confino di qualche anno fa che vi dà fastidio? Allora, alle 8:48 minuti, Rina Junior, vengo a vivere al nord, così titolava due giorni fa il Corriere della Sera. 800 24 00 24. Nicola da Salerno, buongiorno. Buongiorno. Dica. Senta, io quello che non sopporto della Lega ultimamente è questo bifrontismo nei confronti della politica e della gente e dei suoi elettori. Ma ieri hanno votato in un determinato modo per quanto riguarda l'arresto di Romano, ma si tengano Rina, hanno lasciato Romano nel Parlamento, si tengano pure Rina. Beh, Nicola, cioè lei sta paraconando, a parte che non hanno votato l'arresto, non c'è nessuna richiesta di arresto per il ministro Romano, ma una richiesta semmai di rinvio a giudizio sulla quale si esprimerà un giudice per udienza preliminare. Ma lei vuole paragonare... Scusi, adesso io va bene tutto, ma vuole paragonare la situazione del ministro Romano con quella di Salvatore Rina Junior? Cioè, ma secondo lei sono due casi uguali? Cioè, stiamo parlando di due... Sono molto sì, simili. Sono anzi, molto simili. Il bifrontismo della Lega e dei suoi, nei confronti dei propri elettori. Però, Nicola, io se lei vuole la questione della Lega, adesso le risponde il senatore Vallardi. Però, insomma, paragonare la situazione del ministro Romano, che è imputato, nel senso che la procura chiede per lui un rinvio a giudizio per concorso esterno in associazione mafiosa, poi forse ci sarà un processo, forse, forse no, forse questo processo porterà una condanna, forse no, al caso di Salvatore Riina Junior, condannato a 8 anni per associazione mafiosa, insomma, uno può paragonare quello che vuole, però vabbè. Senatore Vallardi, vuole rispondere sulla questione Lega, che ieri ha votato alla Camera, lei è senatore, ma ha votato, sì, come guardi, sappiamo? Credo sia anche molto semplice la demagogia dell'amico Nicola da Salerno, è chiara ed evidente, sono due cose completamente diverse. Irina, paragonarli al ministro Romano credo sia assolutamente inconcepibile, però è sintomatico di un attacco concentrico alla Lega Nord che sta cercando di cambiare questo paese, sta cercando di portare avanti le riforme e soprattutto sta cercando di bloccare quei continui trasferimenti, quel drenaggio di denaro che va purtroppo in maniera inutile verso il sud. Ma anche se le incongruenze politiche del voto qualcuno le ha sottolineate, ma è un'altra questione. Guardi, è un'antica, è una vecchia storia, le indagini sul ministro Romano non si fermano assolutamente, seguiranno la strada normale, no, certo, lui continua a fare il ministro, mi sembra che lo faccia anche dignitosamente, si è impegnato, ha fatto delle buone cose, sta portando avanti l'etichettatura che era stata consigliata dalla Lega Nord, si sta impegnando per il rilancio dell'agricoltura e io credo che sia giusto che lui continui a lavorare tranquillamente finché non verrà dimostrata la sua innocenza oppure al contrario la sua colpevolezza. Allora, prima di tornare da Gonnella vorrei Antonio dalla provincia di Padova, visto che ci chiama da lì. Antonio, buongiorno. Buongiorno, non solo dalla provincia di Padova, ma anche da una zona più o meno vicino alla riviera del Brenta, sì, che fu oggetto negli anni 70, no, dei soggiorni obbligati, allora sì, mi ricordo quasi 50 anni, mi ricordo di questi personaggi. Io so che da là è nato il fenomeno della mala del Brenta. La mafia del Brenta, lo stesso Maniero, riconobbe, dichiarò che lui prese i contatti con questi soggiornanti obbligati. Cioè, ma la storia insegni o non insegni qualcosa? Cioè, quindi lei dice la paura che se viene qui Riina, la paura attuale vista alla luce di quello che è successo nel passato è che se arriva Riina qui, che succede? E siccome non c'è nessuno in grado, perché in realtà, parliamoci chiaro, nessuno è in grado di esercitare un controllo preciso nei confronti delle persone, è impensabile, è impossibile, tantomeno in queste organizzazioni onlus, di cui veramente vorrei andare a fondo, ma al di là di questo, che non è l'argomento, abbiamo un'esperienza, abbiamo una storia e abbiamo un fenomeno che è già stato sperimentato, basta. Va bene, grazie Antonio, che è stato chiarissimo, basta. Gonnella, allora, si possono fare anche considerazioni, che effetto le fa, visto che voi lavorate, diciamo, col mondo del carcere a 360 gradi, vedere che si parla, insomma, di questa vicenda attraverso la storia di Salvatore Riina Junior? Sì, diciamo, ovviamente non è la storia dei detenuti italiani, certo, che hanno, diciamo, un'altra connotazione criminale, sono, diciamo, è un altro spessore criminale molto più basso, perché sono principalmente tossicodipendenti, immigrati, persone con problemi psichiatrici. Una cosa vorrei dire, perché, diciamo così, porto un dato anche di esperienza personale. Ho fatto anche 20 anni fa il vice direttore di carcere a Padova e diciamo ricordo perfettamente quegli anni, perché ero fra l'altro il custode del padre di Riina. Ero il custode del padre in quegli anni in cui c'era il processo all'Aula Bunker a Padova. Guardi, le dico che chiunque, e quindi non è che proprio sono a digiuno di conoscenze, di prevenzione della mafia, le assicuro che se parli con qualunque magistrato, immagino anche col suo ministro, le dirà che lo sradicamento dal territorio è essenziale. Poi ognuno dice, come nel caso dei rifiuti tossici, non a casa mia ma a casa dell'altro, però lo sradicamento dal territorio è determinante. Poi un secondo solo per dire al radioascoltatore che però Felice Maniero non era meridionale, Felice Maniero era di là e che il suo vice era di là. Che però lui ci ha preso contatto con le persone che erano lì e che erano... I vertici erano tutti sì, là. Sì, certo. Questo sì, però diciamo ha preso contatto con le persone, ha trovato manovalanza, so che è brutto usare questa parola. Certo, però sappiamo che erano gli anni 70 e oggi la criminalità organizzata viaggia, diciamo, su altri, diciamo, su altri canali un po' più, insomma, che viaggia su altri canali un po' più spediti che quello del vivere su un territorio. In ogni caso, staremo a vedere come va a finire. Domenica pare uscirà dal carcere di Voghera. E questa notizia certamente tornerà sui giornali. Ringrazio il senatore Giampaolo Vallardi della Lega Nord e Patrizio Gonnella, presidente dell'associazione Antigone, con Alessandro Longoni e Elisabetta Fusconi in redazione e oggi il nostro Carmelo Lauricella in regia. Che dire, vi diciamo che potete scriverci a 24mattino@radio24.it. Dovete invece, non potete, dovete andare sulla pagina Facebook nostra 24 Mattino per le discussioni, forum e tutti gli approfondimenti. E se volete invece domattina alle 7:20 siamo ancora qua. A domani.